Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera a tutti voi, cari ascoltatori, da Gesi e da Antonio. Allora Antonio, ormai è quasi finito il carnevale, io sono contenta che sia finito, perché quest'anno mi sono data alle frittelle. Sì. E ai crostoli meno, ma le frittelle, beh, vabbè, pazienza, dopo mi metterò in dieta, da mercoledì sono in dieta. Benissimo, nel frattempo diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Ricordiamo il nostro indirizzo internet che è bluradioveneto.it e il numero di telefono per proposte, suggerimenti, consigli ed altro che è il 346 23 20 033. Ricordiamo che è anche possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, e ricordiamo anche che dobbiamo sempre un saluto al nostro regista, Eddie, naturalmente. Certo. Allora, oggi avremo un ospite virtuale, certo, che è il dottor Giovanni Salvador. Già l'avete già sentito in altre due trasmissioni, oggi è l'ultima e finirà di parlarci di Conegliano. Intanto ti ascoltiamo la prima canzone in programma, che è cantata da Amedeo Minghi ed è La vita mia. Vita mia, non sappiamo più afferrare, maneggiare questo amore che svanisce, sguscia via. Ti sei intristita e poi ti sei stranita, non dici più che bel tempo sei tu. Infatti piove, vorresti uscire, raffreddarti insieme a me. Io vestito leggerissimo morrei e mi abbandonerei per vedere di nuovo la vita mia, rapidissimo addio. E guardo fuori, vedo cuori e sono gli alberi che anch'io ho scalato anch'io e annidato lassù. Rivedo te che sei la vita mia. Questa vita tra le braccia, tra le mani, ha un bel volto, la tua faccia ha un gran bel viso, ha il vuoto che dai tu, anche il tuo sorriso io l'ho vissuto e confuso sono io. Se questa è vita, l'ho toccata, l'ho sentita su di me, l'ho abbracciata in te, guardo meglio e non c'è più dubbio che tu sia, che sei la vita mia. Eccoci di nuovo in studio e abbiamo al telefono il dottor Giovanni Salvador. Giovanni? Buonasera Giovanni. Buonasera, ciao a tutti. Ciao Giovanni. Ciao. Come stai? Dai, abbastanza bene, a parte un po' di tosse che mi perseguita da qualche giorno, ma insomma è normale, no? Con la stagione. Esatto. Appunto. Allora Giovanni, siccome sì, hai fatto, questa qui sarebbe la terza trasmissione, sì? Ma siccome è passato diverso tempo dalla prima, quando è che ti sei laureato tu? Oddio, mi sono laureato nel 2011. Ah, circa 2 anni fa? Sì, sì, a novembre del 2011. In scienze storiche. In scienze storiche. La tua tesi? La mia tesi si intitola Conegliano ad occhi chiusi, sì? Una storia di rumori, odori e voci. Benissimo. E adesso tu ci hai già parlato, siamo arrivati quasi ai tempi nostri, no? Sì, sì, ho parlato di come Conegliano si sia sviluppata, di come i rumori, gli odori abbiano accompagnato il suo sviluppo, partendo diciamo dall'undicesimo secolo più o meno, quando su una sommità collinare è sorta questa prima fortezza, una sorta di fortezza murata, formata da consorterie di famiglie che si sono unite appunto per difendersi dalle invasioni. Gradualmente questa fortezza poi si è accogliendo attorno a sé, diciamo, gente che lavorava per questi signori, si è circondata di nuove abitazioni, di botteghe, fino al XV secolo, quando poi con l'avvento delle armi da fuoco non avevano più senso le mura, e con gli anarco che ha conosciuto il suo fermento, sviluppandosi anche al di fuori delle mura, delle cinte murarie, e con nuovi borghi e nuove botteghe. Ecco, il suo fervore economico lo conosce appunto con la Serenissima. Quando con la Serenissima, per la sua posizione, diciamo, era diventato un importante scalo mercantile, perché qua con gli anni c'erano le vie di comunicazione verso nord, verso il passo del Fadalto, e verso est, verso l'Austria, sì, verso la via napoleonica. E di qua passavano chi? Passavano pellegrini, mercanti, c'era un via vai di viandanti, sì, c'era un luogo di passaggio, ecco. In più, con gli incentivi che dava la Serenissima per chi sui suoi territori apriva delle attività, qui a Conegliano sono arrivati parecchi stranieri anche, che aprivano botteghe, eccetera, quindi c'è stato proprio un fermento. C'erano stranieri anche allora, dai. Sì, sì, sì, sì, benché si dica. E tra questi c'erano gli ebrei che già nel XV secolo hanno portato con gli anni cosa? Hanno portato l'arte di lavorare la seta, hanno portato il baco da seta, che assieme alla coltivazione dell'uva e la vendita del vino sarà una delle ricchezze di questo territorio fino al secolo scorso, con il baco da seta. Lo sai che quando uno è tirchio, cosa dicono? Quando uno è? Quando è un po' tirchio uno, lo chiamano come? Lo chiamano ebreo? Ma lì è tutta una storia, perché appunto gli ebrei avevano, per religione, loro potevano concedere gli interessi, quando loro la religione nostra lo impediva, diciamo, mentre loro lo potevano fare. C'erano gli usurei, Esattamente, esattamente, solo per quel motivo, insomma, perché poi penso che gli ebrei con la loro storia sia molto importante, ecco. E così? Ecco, con loro sono arrivati, ovviamente, questo è stato il fermento di con loro, con lo sviluppo sono arrivati nuovi odori, poi consideriamo che vicino a Conegliano, attorno a Conegliano, oltre le mura, c'erano gran parte, era campagna, fino tra l'altro agli ultimi decenni del secolo appena trascorso. Tanti odori di letame c'erano una volta. Stallatico, dai, diciamo così. Odore di campagna. Odore di campagna, sì, che purtroppo adesso l'abbiamo un po' dimenticato. Invece anche lui... Genuino. Sì. Ecco, e poi diciamo punti che hanno caratterizzato queste fasi dello sviluppo sono stati... dopo la decadenza di Venezia, il tramonto di Venezia nel 1797, diciamo, sono arrivati gli eserciti napoleonici. Con gli eserciti napoleonici sono arrivati nuovi rumori, nuovi odori ancora, perché loro cosa portarono con sé? Portarono le fanfare che per la prima volta arrivarono qui, quando noi eravamo abituati, noi, tra virgolette, eravamo sì. abituati a sentire solo i cori ecclesiastici o le processioni, quindi non avevamo altri suoni per le vie. Con l'arrivo degli eserciti napoleonici, ecco che arrivarono queste nuove sonorità delle fanfare, tamburi, eccetera. C'erano i rumori dei vecchi cembali che suonava, oppure delle... Ma no, loro, i francesi sono arrivati generalmente con fanfare, trombe, tamburi. Ah, sì? Noi eravamo appunto abituati a questi suoni di cembalo, forse, sì, come dici tu, dovrei approfondire. Molto più delicati, e poi cori ecclesiastici, ecco. Che poi dal cembalo è nato pian piano il pianoforte. Sì. Ecco, sì. Poi cosa succede? Poi con la cessione dei territori veneti all'Austria da parte di Napoleone, ci sono state molte migliorie sotto l'aspetto viario, nuove strade come le strade postali, e rumore di carrozze, perché con gli austriaci arrivano i postiglioni, c'era un via vai di carrozze e cavalli, e con gli austriaci importantissimo arriva anche la ferrovia. Quella è più... Che arrivano proprio lì, c'è una fase, diciamo, epocale come sonorità, perché queste locomotive iniziarono per la prima volta ad attraversare campi e campagne che erano abituati alle sonorità massimo del campanile della chiesa, quindi ecco che iniziarono i fischi, i suoni della locomotiva, lo sferagliare delle ruote sui binari, eccetera. Allora le locomotive facevano un rumore e poi facevano anche del fumo nero. Oltretutto. Quindi immaginiamo il paesaggio che poteva esserci, che radicale cambiamento c'è stato con l'arrivo della ferrovia. Questo succede il primo maggio del 1855. Quindi siamo già a metà dopo l'arrivo di Napoleone, la cessione dell'Austria da parte di Napoleone, il periodo austriaco che va più o meno dal 1815 fino al 1866, quando il Veneto entra nel Regno d'Italia. Ah, sì. Con l'entrata del Veneto nel Regno d'Italia, ecco che Conegliano ritorna ad avere le sue caserme, perché qua a Conegliano c'erano 5 caserme, però sono stati fondati i reggimenti alpini dell'artiglieria del sesto e del quinto, no, del settimo, sesto e settimo artiglieria, quindi c'era un via vai di soldati, che tra l'altro fino alla metà degli anni Ottanta del secolo appena trascorso, si vedevano ancora le colonne militari che transitavano per la città. Addirittura? Sì, sì. Probabilmente jeep, carri armati, transitavano per la città per andare, non so, a fare le esercitazioni sul Piave. E poi sono spariti, adesso non si usa più adesso. Adesso non ci sono più neanche dai militari di leva, non ci sono più. No, ma infatti con la sparizione della leva sono sparite anche queste colonne militari. E adesso, ecco, così pian piano siamo arrivati anche... Arriviamo a fine 800, poi c'è l'arrivo dell'energia elettrica, e l'arrivo delle macchine, il petrolio, la benzina, ecco che nuovi odori. Altri odori. Altri rumori. Esatto, e la strada... Oltre ai cavalli adesso ci sono le macchine, le trombe, le musiche. Arriviamo al 1915, quando il 24 maggio l'Italia entra in guerra. Ecco che purtroppo qua si assistono al ritorno poi degli austriaci nel 17, a nuovi odori, nuovi rumori dovuti alla guerra. Rumori poco piacevoli. Con armi inconsuete rispetto a quelle usate fino ad allora, perché iniziano le armi chimiche, le mitragliatrici, eccetera, quando prima si usavano più o meno alabarde, poco più, insomma. Le lance, tutte quelle cose lì, le spade. Ecco. E così ecco. Siamo arrivati alla prima guerra mondiale. C'è stato poi il periodo del fascismo, l'arrivo del fascismo, la meccanizzazione sui campi, sui prati, con il fascismo, e quindi anche sulla campagna, diciamo che gradualmente i buoi andavano a sostituire i trattori andavano a sostituire i buoi. Quindi altri rumori? Altri rumori, meno odore magari di stallatico, ma più di diesel, ecco. Ascolta, Giovanni. O di metano, perché i landini andavano con il metano. Eh sì. Giovanni, ci fermiamo un momentino per una canzone e poi ti riprendiamo. Va bene. Allora, la seconda canzone in programma è cantata da Gino Sant'Ercole ed è Una carezza in un pugno. Mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia, e stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà. Mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al cielo, così tu non sarai lontano quanto brillerai nella mia mano. Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano, dove prima tu brillavi, è diventata un pugno chiuso, sai. Cattivo come adesso non lo sono stato mai, e quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno e dal pugno chiuso una carezza. Nasceva la la la la. Mezzanotte tre, stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano, dove prima tu brillavi, è diventata un pugno chiuso, sai. Cattivo come adesso non lo sono stato mai, e quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno e dal pugno chiuso una carezza nascerà. Eccoci di nuovo in studio con il nostro amico Giovanni, al quale volevo porre una questione. Prima si parlava di rumori, sì, di odori e di sapori. Di sapori naturalmente, direi il sapore delle bollicine eccetera per Conegliano è una tappa fondamentale, o sbaglio? Sì, come dicevo, la vendita del vino assieme alla lavorazione della seta sono i due punti che hanno arricchito, caratterizzato il territorio, proprio, territorio, sì, esatto. Ma cosa facevate già? Cosa facevano già il prosecco? Oddio, non lo so. So che la Serenissima si serviva appunto dell'azienda del vino di Conegliano per il suo dogado. Quindi senz'altro era un vino buono, perché cosa vuoi, quale colline sono vocate particolarmente, sì, diciamo, forte al sole, quindi esatto, c'è un'umidità relativa buona, quindi cioè, il territorio lo permette. E poi c'è una famosa scuola enologica praticamente, sì, ecco, da questo insieme è nata poi nel 1870 più o meno la scuola enologica, che ha richiamato alunni da tutto il territorio. C'è ancora? Importante. Sì, c'è ancora. Diciamo che è stato il fiore all'occhiello e lo è tuttora del nostro territorio, perché è stata l'unica in Italia. Ho capito. Adesso ce ne sono di più, però è stata... Sì, glorioso capostipite. Esattamente. Bene, allora siamo arrivati appunto a parlare della prima guerra, prima guerra mondiale, poi del fascismo. Il fascismo, l'arrivo della radio, come dicevo, e siamo la seconda guerra mondiale, dove appunto si ripetono più o meno gli stessi rumori della prima guerra mondiale. Anche Conegliano la conosce, con l'arrivo dei tedeschi, soprattutto dopo l'8 settembre del 43, l'arrivo dei tedeschi, i rastrellamenti, eccetera, questa lotta partigiana qua sul Piave, sulle colline attorno, i lavoratori per la TOT che venivano reclutati per andare a lavorare sul Piave, così moltissimi conegliani appunto sono stati portati nei campi di lavoro. Io ho raccolto delle testimonianze di signori che appunto sono chiusi in campi di lavoro, trattati come bestie. Ecco. Non nei campi di concentramento, nei campi di lavoro. Campi di concentramento, sì, sono campi di concentramento, che chiamati campi di lavoro perché era un lavoro forzato, insomma, concentravano i prigionieri in questi campi di concentramento adibiti al lavoro forzato, trattati, sì, così, in modo... Però non che c'è... sappiamo, ecco. Sì, beh. Ecco. Arriviamo nel dopo il 25 aprile del 45, ecco che Conegliano, come il resto di tutta Italia, la gente aveva bisogno di dimenticare in fretta i vivi ricordi di una guerra appena finita. E quindi per dimenticare tutti cercavano un lavoro che proprio in quegli anni era quello che mancava, perché tra reduci, eccetera. Cosa succede? Che allora dalle campagne tutto attorno, chi in bicicletta, chi a piedi, chi col cavallo, veniva qui a Conegliano a cercare lavoro presso le aziende, soprattutto la Zopas. E pensa che allora addirittura c'era qualcuno di più fortunato che magari aveva, nei primi anni 50, aveva il motorino, lo nascondeva il motorino per presentarsi poi all'ufficio personale e chiedere di essere assunto, perché se vedevano che tu arrivavi col motorino dicevano che tu eri già fortunato per avere il motorino esatto. Rispetto ad altri, però anche allora c'erano discriminazioni. E poi ecco, soprattutto una volta a quei tempi era il prete era il vero ufficio di collocamento. perché per avere una giusta raccomandazione era importante la voce del prete, perché se tu andavi a dottrina eccetera, eri una persona a posto e magari una chance in più. Se magari appartenevi a qualche sindacato, ecco che era un po' più difficile. Allora mi raccontavano, sai, che era così. Sì, beh, noi non ci con la Zopas arrivano in città gli elettrodomestici. La Zopas è stata la prima, diciamo, grande industria, perché qua il nord-est, cos'è che ha arricchito il nord-est? Questa capacità di alcuni imprenditori di lavorare, di essere talmente ingegnosi, di inventarsi un prodotto come la Zopas, che si era inventata una stufa che con caratteristiche di leggerezza, che ha, diciamo... che scaldava le case, praticamente No, ma che tra l'altro è riuscita a sfondare nel mercato mondiale. Poi l'arrivo degli elettrodomestici, del gas, del frigorifero. Ecco che anche dentro in casa sono arrivati i rumori nuovi, il frigorifero. Perché prima le cose come si conservavano? Con la ghiacciaia. La ghiacciaia, oppure venivano messe sotto il grasso di animale, dentro i vasi, e nascoste sotto all'ombra in cantina perché si mantenesse la carne. E le uova invece nella calce, so che le conservavano. Sistemi ingegnosi. Sistemi ingegnosi. E poi ecco che con la vasca da bagno sparisce la tinozza e la gente non va più a lavarsi nel Monticano. E arrivano i bagni, perché consideriamo che negli anni 50-60 il bagno era un privilegio di pochissimi. Era un lusso. Sì, perché tra l'altro io sono nato in campagna e mi ricordo che per andare al gabinetto bisognava farsi un tratto di attraversare il cortile, andare dietro la concimaia, sì, dietro la stalla e andare lì. Quella era la condizione abituale. Poi sono arrivati i bagni e così. sono cambiate, è cambiata la nostra abitudine. Tutti volevano lavorare, cercavano lavoro e si pensava solo da costruirsi una casa, migliorare. Però cosa succede? Il contro di questo cos'è? Che la gente piano piano ha perso la solidarietà l'identità anche, mi pare, sì. Poi consideriamo nel 54 è arrivata anche la televisione. Quello è stato uno strumento proprio. Era uno strumento di aggregazione inizialmente, sì. Tutti quanti si trovavano davanti al bar. C'erano alcuni baristi che d'estate mettevano la televisione sulla finestra, rivolta verso il fuori, in modo tale che la gente la potesse guardare, o si sedevano con le sedie sul cortile per guardare la televisione. Esatto. Poi piano piano con questo lavori con i primi lavori, perché tanti, ecco che in questo periodo nascono i metalmezzadri, gente che dalla campagna, siccome la campagna non è che offrisse, anzi non è che offra uno stipendio sicuro, un salario certo, a differenza del lavoro in fabbrica. Certo, che lì è uno stipendio sicuro. Quindi nascono che i metalmezzadri che dalla campagna vengono qua e lavorano, quando finiscono di lavorare sui campi, lavorano in fabbrica, ci sono i primi salari, con i salari si inizia magari condizionati dalle soap opere che trasmettevano per televisione, vedere le case degli americani con i comfort, con i mobili, la pubblicità, Carosello. Sì, perché Carosello c'era in quegli anni. Ci ha accompagnato fino agli anni, ricordo, ma... Neanche io non mi ricordo in questo momento, ma... Fino agli 80 sicuramente. No, mi pare che si sia nel 76-77, mi pare, ma bisognerebbe chiarire. Poi c'è stata l'accelerazione della televisione commerciale e lì naturalmente... Cioè, è stata la corsa al consumismo. Al consumismo esasperato, esatto. E poi piano piano tutti si sono comprati anche il proprio televisore e piano piano la gente si è rinchiusa nelle loro case. Però Giovanni, a scapito della socializzazione. Però Giovanni, quando la gente andava a vedere la televisione al bar, era un incremento anche per i baristi. Certo. In sostanza, per loro era una... Ma sai, dopo piano piano uno magari la sera stanco perché deve aver lavorato in fabbrica tutto il giorno, o per stanco per un motivo, o vuoi per pigrizia, piano piano i soldi arrivano in tasca, arrivarono. Sì, perché era il periodo del boom, quello, allora, boom economico. È il periodo del boom economico, perché siamo tra il 58, inizio del boom economico, 58-63, è proprio quell'arco di tempo chiamato boom economico, dove appunto l'Italia è tra i maggiori produttori di elettrodomestici al mondo, dopo Stati Uniti e Giappone. E quindi soldi ce ne sono, perché anche lo stipendio, mi sembra che l'Italia sia seconda solo alla Germania come stipendio. No. Come sono cambiati i tempi. Ci fermiamo un momentino per ascoltarci un'altra canzone che facciamo annunciare da Antonio. Beautiful That Way è la colonna sonora. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Forever. Eccoci di nuovo col dottor Giovanni Salvador. Giovanni? Sono qua. Allora, sì, so che hai poco tempo. Ci parli un po', sì, così adesso come sì. Vedi Conegliano adesso? Sì, sì, no, dicevo appunto con l'avvento di queste aziende che hanno avuto un incremento esponenziale di loro dipendenti, la città, la giunta comunale non si è trovata preparata ad accogliere un così numero di manodopera. E poi l'assenza di un piano regolatore ha fatto il resto, nel senso che sono cresciuti come funghi palazzi e grattacieli palazzi a 7-8 piani qua a Conegliano, dove appunto c'erano prati e pascoli, e uno sviluppo che ha, diciamo, quegli anni là, che ha purtroppo, dico io, caratterizzato l'intero territorio nazionale. Sì. La notizia di ieri mi sembra che il Veneto sia la seconda regione dopo la Lombardia. Dopo la Lombardia, esatto. Per cementificazione. Per scempio e spreco del territorio. Quindi effettivamente non è migliorato niente da allora, purtroppo. Quindi avete poco verde? Avete poco verde anche voi a Conegliano? Il verde è un colore che probabilmente non piace. Piace solo in determinati casi e basta. Insomma, una cosa. È un colore che come non porta ricchezza, forse, ecco. Ma anche lì da voi ci sarà disoccupazione, come dappertutto, purtroppo. Sì, perché adesso cosa vuoi con anche la Zanussi stessa, la Zoppa è stata assorbita dalla Zanussi, poi è stata assorbita dalla Rex, eccetera. Adesso mi sembra che ieri... Sì, è proprio di questi giorni, appunto, l'ulteriore problema. Esubero e riduzione. Sì. Il problema è se non si riesce a convertire un po' le nostre aziende in una green economy, la vedo difficile. Sì, ma è proprio questa la sfida, credo, dei prossimi anni. Adesso... Dobbiamo renderci conto che noi dobbiamo guardarsi un po', per andare avanti bisogna guardarsi indietro, esatto. Per ritornare ad avere una certa sintonia con la natura, perché dovremmo solo imparare dalla natura e non avere la presunzione di... A tal proposito, io ho scovato su YouTube un videoclip di alcuni minuti del 1972, sì. Dove c'erano Andrea Zanzotto, Beppi Mazzotti, Walter Baldiana e Totti Dal Monte che disquisivano, e si chiama Incontri 1972 con Beppi Mazzotti. Bello. E disquisivano all'epoca sulla scomparsa della civiltà contadina e sullo scempio del territorio 40 anni fa. Diciamo che documenti per stabilire come si sarebbe dovuti andare ce ne sarebbero stati, di testimonianze e di altre cose. Evidentemente la miopia è generalizzata, non è solo nostra, naturalmente. C'è questa caratteristica di volersi arricchire senza guardare e di non pianificare, come hanno fatto per esempio austriaci, tedeschi e quant'altro, insomma, no, ecco. Stiamo veramente parlando di che purtroppo io vedo un'amministrazione ancora cieca su queste problematiche, che non vedo nulla di nuovo, non vedo niente. Vedo anche qua ci sono questi ingegneri, ma ingegneri edili non vedo nulla di bisognerebbe nuovo. Mettere un assessorato al bello, all'estetica, probabilmente qualcosa del genere. Sì, sarebbe fondamentale, anche perché la bellezza di una città si misura in base alla sua vivibilità, a come si può camminare a piedi, all'aria che si respira, il PIL dovrebbe essere calcolato anche con l'aria che si respira. Anche. E non solo alla ricchezza. La ricchezza di chi? Certo, Cima oggi chissà che cosa direbbe. Sì, sarebbe preso lo sconforto. Ho l'impressione proprio che sia così. Sì. Scusa Giovanna, per quanto riguarda i beni artistici, avete... Conegliano è molto, molto bella sotto questo aspetto, perché dico, solo percorrendo il Viale 20 Settembre, l'antica contrada grande, con un po' di fantasia si potrebbe respirare e sentire i rumori che c'erano a fine del 400, ecco, perché era una via ricca di botteghe, di fabbri, di calzolai. Adesso è un po' così, un po' morto, anzi ho sentito che vorrebbero riaprire il traffico. Infatti. Non so. Ma perché l'avete chiuso voi in centro il traffico? Ma è una zona a traffico limitata, però ci sono alcuni che si lamentano che i negozi, nessuno va nel negozio perché se non si arriva con la macchina davanti, nessuno poi è incentivato ad acquistare. Questa è la... Ho sentito, sai, che c'è questa diatriba tra commercianti e così, perché alcuni vogliono che si riapra il centro, perché se no uno, se non ha la macchina vicino, non può andare a comprarsi nulla. Altri che dicono che invece bisogna che rimanga chiuso. Ma come si vive a Conegliano? Come si vive a Conegliano? Intanto la fortuna di Conegliano è che in pochi passi, partendo dal centro, in pochi passi si riesce, camminando sopra l'argine, a andare ancora in mezzo alla campagna, dove si sentono ancora i canti degli uccelli lungo il fiume, lungo il Monticano. Questa è la bellezza di Conegliano, è questa, a piedi, altrimenti in collina, si può andare su in collina. Ma avete la collina vicino voi proprio? Abbiamo una ricchezza che però non è, secondo me, potrebbe essere valorizzata. Viene snobbata forse? Potrebbe rientrare, sì, perché anche da questo aspetto storico abbiamo queste mura, che sono dal 1100 le prime mura, abbiamo la storia del Cima, sì, ci sono... Avete teatri? Abbiamo il teatro, abbiamo tre teatri, sì, cosa c'è? Io sono un po' assente però il teatro ci vado, vado in inverno soprattutto, al Dina Orsi a Parè. Non è a Conegliano, è una frazione, sì, una località, un quartiere, sì. O l'Accademia, molto bello, l'Accademia, sì, esatto. Molto bello l'Accademia, fanno bei spettacoli, cioè, ci sono attività, cultura ce n'è un po', ecco. Sì, potrebbe essere, ecco, un po', secondo me, più valorizzato l'aspetto, ma vuoi forse perché ci sono delle carenze economiche, magari le idee ci sono, ma mancano i fondi per realizzarle, ecco, sotto questo aspetto. Però di fatto tutto attorno, dove prima c'è stata una costruzione, ormai siamo pieni di centri residenziali, centri commerciali, di supermercati e anche là i supermercati, quelli in centro, i piccoli hanno dovuto chiudere perché sono aperti i grandi centri commerciali, sì, e questo purtroppo... senza pensare anche a una persona anziana che non ha la macchina, non può andarci. L'impressione che abbiano trasposto, senza pensarci troppo, la cultura del mall americano, dove però in America hanno 50-100 chilometri tra le località. Esattamente. Evidentemente, allora ha una sua funzione. Ha un senso. Funzione ha di cannibalizzare le altre attività, insomma. Ecco. Aree verdi qua vengono destinate ad aree vendute a grossi centri commerciali, e con i soldi che prendono da questi centri per la costruzione delle locali finiscono certi lavori di urbanizzazione. Sembra un impoverimento collettivo, non lo so, è una mia opinione. A scapito di tutto il resto. Perché... Così è. E come traffico? Ce n'è tanto? Cioè, si cammina abbastanza per le strade comodamente, non so. Come ti dicevo, adesso vorrebbero riaprire il centro storico, quindi sul fatto che una città si misuri in base alla vivibilità, al silenzio, all'inquinamento, forse stiamo andando sulla direzione opposta. Ma così Giovanni, tu ci hai fatto veramente un'ampia storia della città, della cittadina di Conegliano. E io volevo dire che mi sono dimenticata di dire che tu ti sei laureato, ma hai studiato e lavorato insieme. Eh beh sì, io lavoro sì, come... Sì, e quindi la tua laurea... Doppiamente sì, meritoria. No, ma la mia laurea è è un hobby mio, ecco. Vabbè, però ti sei laureato. È importante. Sì, cioè, ecco, l'impegno è stato ripagato. Ecco, se vogliamo mettere... Io continuo comunque a studiarmi le mie cose, adesso mi sto studiando un po' la storia greca, così... E c'è tutto da imparare dagli antichi. Sì, anche a me piace la storia greca. Comunque, noi ti ringraziamo tanto perché hai fatto una bella esposizione. Grazie e chissà, ci sentiremo per qualche. Io vi ascolto e complimenti per la vostra radio perché fate bellissime rubriche. Niente, complimenti e io li faccio a voi. Giovanni, grazie tante. Di nuovo, grazie a voi. Grazie, a risentirci. Okay. A risentirci. Ciao. Ringraziamo Giovanni, il dottor Giovanni, dai, diciamo. E andiamo con un'altra canzone in programma che è Via Margutta, che è cantata da Luca Barbarossa. Sta cadendo la notte sopra i tetti di Roma, tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte senza fare rumore, sta passando una stella sui cortili di Roma. E un telefono squilla, nessuno risponde, a una radio che parla. È vicina la notte, sembra di accarezzarla. Amore, vedessi com'è bello il cielo a Via Margutta questa sera. A guardarlo adesso non sembra vero che sia lo stesso cielo dei bombardamenti e dei pittori, dei giovani poeti e dei loro amori consumati di nascosto in un caffè. Amore, vedessi com'è bello il cielo a Via Margutta insieme a te. A guardarlo adesso non sembra vero che sia lo stesso cielo che ci ha visto soffrire, che ci ha visto partire, che ci ha visto... Scende piano la notte sui ricordi di Roma, c'è una donna che parte, un uomo che corre, forse vuole fermarla. Si suicida la notte, non so come salvarla. Amore, vedessi com'è bello il cielo a Via Margutta questa sera. A guardarlo adesso non sembra vero che sia lo stesso cielo dell'oscuramento e dei timori dei giovani semiti e dei loro amori consumati di nascosto in un caffè. Amore, sapessi com'era il cielo a Roma qualche tempo fa. A guardarlo adesso non sembra vero che sia lo stesso cielo, la stessa città che ci guarda partire e volerci bene, che ci guarda lontani e poi di nuovo insieme prigionieri di questo cielo, di questa città che ci ha visto soffrire. Ed eccoci di nuovo in studio e per continuare, diciamo, nella tradizione vorremmo leggervi ora alcune poesie del poeta isolano Carlo G. Zizzola. Inizio io con negli orologi illuminati. Negli orologi illuminati e rotondi della stazione ho accarezzato la nostalgia stessa, come se tu ed io esistessimo ancora in questa stagione ormai slegata dal tempo. Mi chiedo se sia una finzione quello che mi risuona in mente e di notte striscia nella voce smorzata della luna, o una tua vicinanza impalpabile, inconsueta, che si abbandona nell'umido biancore della notte. Un portone spalancato. Un portone spalancato su un selciato umido di pioggia. Alberi allineati in doppia fila, più estranei del solito. Un paesaggio freddo questo, con occhi grandi e fermi, labbra aperte che non dicono niente, e altri dettagli. La luce si sgretola sui muri, ma anche i sassi cambiano. Possono essere frantumati, ridotti in scaglie, ghiaia, polvere. Con lo sguardo fuggente, infilo per pochi passi le mani in tasca, intrappolato dal torpore di pozzanghere d'acqua, come se nubi arruffate e grigie mi attraversassero la testa. Buonanotte. Buonanotte alla notte, che trascina tutto senza lasciare un indirizzo, se non uno sghirbizzo e cicche di sigarette tra righe strette, incrociando le dita sul destino della vita, tra voglie e bottiglie. Buonanotte, buonanotte a barattoli di cibo conservato, a tutto quello che ci è dato. Buonanotte alla notte e allo scricchiolio che fende l'orecchio, alla luna che splende in un secchio. Buonanotte ai raggi del sole e ai saggi. Buonanotte a ciò che si indovina. Buonanotte a chi si avvicina. Buonanotte alla notte e a te, anima mia. Sempre a proposito di notte, la notte ama ascoltare. Quando gli ultimi rumori si sono spenti nelle ombre innumerevoli, la notte ama ascoltare la libertà della pioggia, oppure la parola sottile che si infila tra le nuvole. Ama le piazze, dove hanno una statua l'amore e la solitudine. Ama l'idea di essere ancora. E continuiamo con la tradizione, con un brano dal libro di Bruno Lorenzon, mio compaesano e cantore del mondo contadino, Drio Arestera, è il parlare dei noni. B come bruscandoi. Ciò che più conta nella vita, dopo l'amore, è il cibo. Anche perché l'arte culinaria del Veneto non è seconda a nessuno, e i piatti tipici della cucina trevigiana, dalla sopa coada al risotto alla sbiraglia, dall'oca rosta ai risi e bisi, sono molto apprezzati e godono di una fama che supera i confini regionali. Adesso che una certa moda gastronomica riscopre i sapori genuini di una volta, i prodotti locali tornano ad acquistare pregio, e c'è chi, fra i ristoratori più avveduti, ha fiutato il business e ha inserito nel menù i tanti frutti dei nostri campi. Attualmente il radicchio trevisano precoce e tardivo e la varietà di Castelfranco, opportunamente sponsorizzato e commercializzato con indicazione d'origine, sembra farla da padrone e trova facile collocazione ovunque. Ma un tempo doveva contendere questa fama ai frati, le erbe, non i religiosi, ai bruscandoi, germogli di luppolo, ai sciopetini e ai funghi, ciodetti e pioparoi. Tornano in auge anche i fiori de suca e perfino i fiori de gasia, che costituivano peraltro, insieme con la pinsa all'Epifania e fritoe a Carnevale e la fugassa a Pasqua, il dessert delle nostre famiglie. C'era chi apprezzava anche le infiorescenze del glicine, badando a non friggere assieme con il grappolo anche qualche vespa che vi avesse trovato ospitalità.

detto è vecchio tutto quello che lei fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia se non l'ha capito già. E che gli dico? Guardi, non posso, io quando ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità. Lucia San Siro, di quella sera che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti, giocare il tempo sull'erba morta con il freddo che fa qui. Ma il tempo emigra, mi ha messo in mezzo, non son capace più di dire un solo no. Ti vedo e a volte ti vorrei dire, ma questa gente intorno a noi che cosa fa? Fa la mia vita, fa la tua vita, tanto doveva prima o poi finire lì. Ridevi e forse avevi un fiore, non ti ho capita, non mi hai capito mai. Scrivi. Eccoci di nuovo in studio per il finale, proprio siamo arrivati agli sgoccioli anche per questa sera. C'era una brevissima considerazione che volevo fare riguardo alla storia di questi centri apparentemente minori, diciamo, che abbiamo, a parte le città capoluogo, eccetera, perché sono questi luoghi fecondi di storia, di socialità, eccetera. Mi ricordo la lezione di un grande giornalista come Giorgio Lago, il quale raccomandava a noi, diciamo, corrispondenti, per esempio, della Vita del Popolo, di altre riviste diocesane, di andare sul locale, perché è lì che nel futuro si svolgerà veramente la storia, quella sì, vera. Eh sì, e poi si vive un'altra dimensione. Esattamente. Allora, così il nostro dottor Giovanni ci ha parlato di Conegliano, ha finito appunto di parlarci così dei nostri tempi, di come si vive adesso a Conegliano. Poi abbiamo letto due poesie del poeta Giancarlo Zizzola, e il nostro Antonio ci ha fatto un po' venire l'appetito, anche se è sera, ma insomma. Così, Antonio, ti saluto, ti ringrazio. A mia volta. Ecco, e salutiamo tutti e come sempre vi dico ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.